La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 43. Ai fini di utilità generale, la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale. L'articolo 43 legittima in maniera molto forte l'intervento pubblico in economia. Lo Stato italiano ha come scopo anche quello di una corretta gestione dei beni e una corretta gestione dei settori dell'economia. Ecco che l'articolo 43 consente l'espropriazione o la riserva di interi settori dell'economia, settori che si riferiscono a servizi pubblici essenziali, fonti di energia, situazioni di monopolio, ovviamente quando ci sia un carattere di preminente interesse generale. Questo articolo ha avuto due applicazioni importanti sugli idrocarburi e sull'energia elettrica. Soprattutto per quanto riguarda l'energia elettrica, nel 1962 c'è stata tutta la legislazione che ha consentito il trasferimento della produzione elettrica ad un ente statale, ad un ente pubblico. L'articolo 43, il modello dell'articolo 43, è stato del tutto superato dal diritto dell'Unione Europea. È stato superato in quanto il diritto dell'Unione Europea ha una visione totalmente liberale e totalmente di mercato. Quindi non possiamo più avere riserve o monopoli a favore dello Stato di determinati settori, perché tutto deve essere gestito in piena concorrenzialità. Questa gestione in piena concorrenzialità la vediamo anche nei settori che invece lo Stato italiano aveva tradizionalmente riservato e trasferito. Il caso è ancora quello dell'energia elettrica, che proprio col passaggio agli anni 2000 è stato nuovamente liberalizzato in virtù del diritto dell'Unione Europea. Ecco che allora l'articolo 43 è un modello oggi desueto, perché oggi non è più possibile per lo Stato riservarsi o trasferirsi a fini di interesse generale determinati settori dell'economia.